Buzzwords. Le parole ronzanti, ovvero le parole in brusio. Maurice Blanchot. Passione, entusiasmo. Passione, entusiasmo. Ecstasis. E mancano le parole per comunicare. Faltan las palabras para comunicar. We miss the words to communicate. Passione! Entusiasmo! E mancano le parole per comunicare. Faltan las palabras para comunicar. We miss the words to communicate. We miss the words to communicate. Levarian. Passione. Levarian. Entusiasmo. Levarian. Passione. Levarian. Entusiasmo. Levarian. Passione. Levarian. Ti sono variazioni. Mi mancano le parole per comunicare. Faltan las palabras para comunicar. We miss the word to communicate. Lo slick. Passione. Lo slick. Entusiasmo. Passione. Entusiasmo. Lo slittamento è lo specchiamento. E mancano le parole per comunicare. Falta las palabras para comunicar. We miss the word to communicate. Capestri, estroversi. E mancano le parole per comunicare. Faltan las palabras para comunicar. We miss the word to communicate. Capestro estroverso. Capestro estroverso. E mancano le parole per comunicare. Faltan las palabras para comunicar. We miss the word to communicate. Passione. entusiasmo, passione, entusiasmo, prolissità, rimuginante. E mancano le parole per comunicare. Faltano le parole per comunicare. We miss the word to communicate. Passione, entusiasmo, passione, entusiasmo, passione, entusiasmo, come sventramento, lo straniamento come sventramento. E mancano le parole per comunicare. Faltan las palabras para comunicar. We missed the words to communicate.